Buona domenica a tutti e ben ritrovati ancora da Mirko Cavallin in studio e di Daici alla parte tecnica. Ritorna con questa domenica 12 di gennaio il consueto appuntamento di quest'ora con il nostro santo, il nostro Beppi, come lo abbiamo chiamato, come lo chiamavano all'epoca quando era giovane sacerdote, San Pio X, di cui in questo 2014 celebriamo i 100 anni dalla morte. Ci sono alcuni appuntamenti, iniziative da ricordare. Innanzitutto sono aperte da un paio di giorni le iscrizioni per il pellegrinaggio della diocesi di Treviso a Roma dall'8 al 10 settembre prossimi, un pellegrinaggio con l'udienza anche del Santo Padre. Per informazioni l'ufficio diocesano pellegrinaggi in Casa Toniolo a Treviso risponde al numero 0422 576 882, oppure c'è la mail past.pellegr@diocesitv.it. Aperte dunque le iscrizioni per il pellegrinaggio della diocesi di Treviso a Roma in occasione del centenario di San Pio X dall'8 al 10 di settembre. Ma tra pochi giorni, esattamente tra una settimana, c'è un'altra occasione importante che coinvolge proprio San Pio X, perché domenica 19 su Rai 1 ci sarà in diretta la Santa Messa dal Veneto, dalla Chiesa del Sacro Cuore a Mestre. Perché? Perché San Pio X c'entra proprio con Mestre, perché è stato patriarca di Venezia prima di diventare pontefice, era stato vescovo di Mantova alla fine dell'Ottocento, ma prima era stato parroco, e quindi sapeva bene quanto povere erano le nostre popolazioni e quanto soffrirono per dover partire in cerca di miglior fortuna all'estero, in Europa o anche oltre oceano, verso gli Stati Uniti in gran parte, o addirittura verso l'Australia. Ebbene, questo appuntamento è legato proprio a questo. È la 100ª giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Sentiamo il delegato triveneto per la pastorale dei migranti, Don Elia Ferro. Una giornata viene celebrata nel Veneto, nel Triveneto, proprio perché il Papa Veneto, Papa Sarto, è stato lui a introdurre questa giornata già un secolo fa, che vuol dire che le migrazioni non sono un fenomeno moderno, le migrazioni sono un fenomeno che accompagna la storia della Chiesa e anche la nostra storia. Questo ci dà anche la possibilità di non fermarci sulle cose immediate, ma di guardare anche alla profondità del fenomeno. Una profondità che ha 100 anni alle spalle e che forse ha qualche anno davanti. E questo credo sia importante. Il Papa sottolinea l'aspetto positivo, ecco, che il camminare insieme di varie persone è verso un mondo migliore. Questo ci ricorda le realtà del nostro mondo, e sono nuove, sono realtà nuove che stiamo vivendo. Sono più numerosi gli immigrati, gli emigrati che partono dall'Italia, gli emigrati italiani che partono, che non quelli che arrivano. L'emigrazione era attuale ai tempi di Pio X, è ancora più attuale adesso. Come sappiamo, i movimenti dei popoli sono sempre più notevoli, c'è anche molta più popolazione nel mondo rispetto a 100 anni fa. E pensate che la prima giornata mondiale, la prima giornata per i rifugiati, fu celebrata qualche mese dopo la morte di San Pio X, nel dicembre del 1914, con Papa Benedetto XV. Lui le aveva però pensate, appunto, nel corso della sua azione pastorale, sia da Papa che da Vescovo e da Parroco negli anni precedenti. Il Vescovo di Bellunofeltre, Monsignor Giuseppe Andri, che è anche membro della Commissione Nazionale per i Migranti della CEI. Per sottolineare quale grande fenomeno c'è stato allora, quando Pio X, vescovo di diocesi che conoscevano a fondo l'emigrazione, ha voluto stabilire questa giornata, prima per l'Italia, poi nel 1952 la Santa Sede l'ha voluta per il mondo intero. Nel 1968 Paolo VI ha iniziato a stabilire per ogni anno un messaggio del Santo Padre. Il primo messaggio era intitolato così: per la Chiesa non ci sono frontiere, l'emigrazione incontro tra fratelli. Da allora fino al messaggio di quest'anno, sempre ogni anno la Chiesa intera cattolica in tutto il mondo è sensibilizzata alla preghiera, ma anche alla presa di coscienza di questo fenomeno. Ritengo, come vescovo di questa regione, di sottolineare anche la volontà che abbiamo avuto a livello nazionale di scegliere il Triveneto anche per questa celebrazione solenne della messa teletrasmessa domenica 19, perché noi così possiamo ricordarci quanto grande è stato il fenomeno delle migrazioni, modellare anche i comportamenti attuali su un fenomeno che comunque continua, perché è stato riferito già che gli italiani all'estero sono ancora numerosi, anche più numerosi degli immigrati, e imparare da una memoria viva e da tanti sacrifici di persone che hanno lasciato le nostre terre per un'accoglienza che sia conforme a quello che il Vangelo ci chiede. Appuntamento allora domenica prossima a Mestre, Chiesa del Sacro Cuore, diretta su Rai 1 per la Santa Messa che sarà presieduta dal Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia. Il tema di quest'anno della centesima giornata mondiale del migrante e del rifugiato è Verso un mondo migliore. Alcuni appuntamenti in programma nel prossimo periodo, tra le tante iniziative del centenario di Pio X. È saltato purtroppo l'incontro previsto per i giornalisti e gli operatori della comunicazione previsto per domenica 26 gennaio. Invece venerdì 31 gennaio l'Unione dei Giuristi Cattolici sezione di Treviso organizza un convegno specifico, perché Pio X si occupò anche del codice di diritto canonico. L'appuntamento è all'Aula Magna della sede di Treviso dell'Università di Padova. Sabato 8 febbraio due iniziative: una nel paese natale di San Pio X, Riese, nella sede comunale in Villa Egger, sarà presentata la riedizione del volume Pio X, un Papa Veneto. A Venezia invece, sempre sabato 8 febbraio, nel pomeriggio alle 17, alla Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, la terza conferenza organizzata su San Pio X, appunto da un apposito comitato veneziano. Si parlerà di San Pio X, del suo contesto storico, con padre Bernard Ardura, presidente del Pontificio Comitato di Scienze Storiche, col professor Georg Meyer, coordinatore dei corsi di laurea e laurea magistrale in Scienze Internazionali e Diplomatiche dell'Università di Trieste. Parlerà del periodo drammatico verso la Prima Guerra Mondiale che San Pio X aveva purtroppo intravisto e di cui vide solamente i primi fuochi nel 1914. Ci sarà poi anche Don Fabio Tonizzi, direttore dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose San Lorenzo Giustiniani, docente di Storia della Chiesa. 8 febbraio, Scuola Grande di San Giovanni Evangelista a Venezia. Questa puntata dedicata a San Pio X, come sempre, è disponibile sul nostro sito bluradioveneto.it. Ci sarà l'appuntamento con un nuovo argomento e nuovi ospiti domani, con la prima edizione intorno alle 6:25 del mattino, la replica alle 17:40 e poi domenica prossima alle 9:30. A tutti grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.